cappello, nel coperto, nel daudie, nel paradiso. Perdo l'arte il mio viso, non porta il radio, e in ghirlanda i trini degli alti carrubini. Perdo l'arte dicendo, io corro il rischio di buscar qualche picchio. Ragione, ragione.